nonna mi diceva stai attento alla tua schiena, resta sempre dritto, sempre in piedi, stai in campana. Non fidarti mai di chi ti parla e non ti guarda, senti questa zuppa quanto è buona con la panna. Nella vita avrai tante amarezze da ingoiare, ma tu traccia dritto, non ti stare a preoccupare. Fai che la tua vita sia una spada in mezzo al mare, fatti la tua rotta ed io sarò sempre il tuo sole. Nonna, nonna, nonna, nonna, figlia della mia innocenza, madre della mia eleganza, saggezza della mia ignoranza. Nonna, nonna, nonna, nonna, madre della mia sapienza, madre della mia coscienza, madre della mia speranza. Nonna non parlava tanto bene l'italiano, ma aveva un cuore grande come un aeroplano. In dialetto mi mandava segnali strani e sfioravo il cielo coi suoi detti e le sue mani. Nonna mi capiva ancor prima di parlare, zabbaione, uova e meloni da mangiare. Nonna era una roccia, una donna da abbracciare, era la mia stella che mi porto dentro al cuore. Nonna, nonna, nonna, nonna, figlia della mia innocenza, madre della mia eleganza, saggezza della mia ignoranza. Nonna, nonna, nonna, nonna, madre della mia sapienza, madre della mia coscienza, madre della mia speranza. Nonna, nonna, nonna, nonna, figlia della mia innocenza, madre della mia eleganza, saggezza della mia ignoranza. Nonna, nonna, nonna, nonna, madre della mia sapienza, madre della mia coscienza, madre della mia speranza. Della mia innocenza, madre della mia eleganza, saggezza della mia ignoranza. Nonna, nonna, nonna, nonna, madre della mia sapienza, madre della mia coscienza, madre della mia speranza.